dopo il GR di Radio Popolare, nuovamente in diretta con il Breakfast Club di Radio Città Fujiko ogni mattina, e sapete che il martedì altri suoni, la presentazione di questo lavoro che arriva un po' in ritardo dalla sua uscita, e vi spiegherò anche il perché. Di solito presento i lavori di Nusica.org, una label indipendente nella ricerca nel jazz e non solo, che è molto preparata e allo stesso tempo ha motivo di fascino per tutto ciò che è ricerca. In questo caso il lavoro portato da Marco Cesarini, che è qua in diretta telefonica con noi. Ci sei, Marco? Buongiorno. Ci sono, buongiorno, buongiorno. Super mattiniero da Pesaro, se non mi sbaglio, per quanto sì, riguarda Montefabbri. Esatto. Montefabbri, è un borghettino. Quindi, vicino nel territorio pesarese di confine, tra l'altro, e quindi molto vicino anche alla nostra regione. Ma questo ci porta a un'espansione, a un'estensione di emozioni già dal titolo, che è Antelope Cobbler. Io ne ho un'idea, perché ho detto da questo titolo, ma come? Ma pensa a te quale pseudonimo ritorna. E poi c'era Angelica, ovviamente festival e rassegna che abbiamo seguito passo in passino, e poi vi sono stati altri momenti qua a Bologna che mi hanno un pochettino distratto, però ho recuperato immediatamente con un ascolto che mi ha portato un'attenzione, una curiosità anche nella recensione immediata che ne posso fare, da un motivo esoterico, da un motivo surreale allo stesso tempo, però che nella sua ombra ha una luce sua di grande gusto, ma non solo, anche di emozione. Anzi, direi che teniamo una base riportato dal primo singolo uscito da questo album dal titolo Cani Randagi. È uscito il 12 aprile, per la precisione. Siamo un po' in ritardo, ma ciò non toglie che la qualità resta. Allora, Marco, come è nato e perché questo titolo? Allora, il discorso nasce più o meno l'anno scorso, all'inizio del 2023, forse alla fine del 2022, e avevo in testa di esplorare un po' dei territori noir. Sono anche un grande cinefilo, mi piace il cinema, la letteratura. E guarda caso stavo riguardando proprio la filmografia di Lynch, che è un regista che mi piace tantissimo, e lui il noir sostanzialmente l'ha affrontato, però l'ha affrontato in maniera molto molto, come posso dire, personale. Ha ricreato con dei suoi simboli un genere suo, tra virgolette, cioè ha portato delle variazioni interne. Questa visione mi ha stimolato tal punto che ho detto perché non provare a esplorare e a raccontare un noir con la musica, visto che il genere noir in musica non esiste, anche se ci sono delle colonne sonore importantissime di Miles Davis, tantissime, soltanto che se tu vai a cercare su Google non c'è un genere di musica prettamente noir. Quindi ho cercato di rifarmi a un genere letterario, cinematografico, per avere degli stimoli e raccontare una storia. Questa è stata un po' la genesi d'inizio. Poi dopo è stato un work in progress, ovviamente, e durante, di solito mentre scrivo qualsiasi disco, in particolare questo, butto giù anche tantissimi appunti, mi piace scrivere, e da lì è nato un certo immaginario. Ho cercato di dare un senso personale, ecco, al mio gusto noir, ecco. Sì, mi permetto di aggiungere, ok, noir, ma in questo sfondo, nel suo essere leggibile con gusto, il disco ha un riflesso di luce anche, indubbiamente. Certo. Ha un filo che conduce, che è di estetica molto particolare, e poi tecnicamente è riportato in maniera oltre che originale, anche molto preparata, insomma. La Nusica.org, che ringraziamo per tenerci informati su queste uscite, che sono valori aggiunti. Beh, per quanto riguarda la tua passione con la letteratura, è un disco in effetti da leggere, certamente, sì. Oltre che da ascoltare. Ti riconosci in questo? Sì, posso dirvi che sul sito di musica.org, oltre al fatto che potete ascoltare il disco, ci sono delle informazioni su di me, visto che come linea editoriale loro richiedono una spiegazione dei brani, divisi appunto per tracce, io ho dato una spiegazione letteraria scrivendo un breve racconto che poi non finirà, perché in realtà Antelope Cobbler si saprà nel secondo volume, che ho già pronto, il disco è già quasi finito, Quindi è possibile consultare un breve racconto diviso in 6 capitoli, che sono il numero delle tracce che compongono il disco, e quindi c'è anche appunto un elemento letterario, e quindi sì, ecco, si può leggere. E poi vorrei aggiungere solo questo, che per me è importante, almeno come compositore, visto che sono appassionato di cinema e letteratura, poter raccontare una storia con la musica, sì. Quindi cerco anche una certa disposizione dei brani che siano coerenti, sempre dal mio punto di vista, e che possano raccontare, oltre chiaramente delle emozioni, perché musica strumentale, e delle architetture sonore, però per me è importante raccontare qualcosa, ecco. Se tu fossi un artista figurativo, saresti indubbiamente un simbolista, tra Kubin sì. e tanti altri autori che danno questa capacità di comprensione attraverso citazione, simbolo, storicità, momenti epici, e allo stesso tempo un dialogo continuo con l'ascoltatrice, ascoltatore. Hai usato un termine letterario anche per Henry McCluskey, che è l'eteronimo, ed è molto particolare anche questo aspetto. Ci puoi dire qualcosa di più? Sì, ecco, io sempre venendo dal fatto che sono appassionato di letteratura, quando lessi da adolescente Pessoa, quando scoprì che sostanzialmente lui creava questi eteronimi per, con la loro biografia, quasi per mascherarsi, mi è in qualche modo è come se lui desse voce a delle altre parti di sé, che magari nella vita quotidiana non poteva fare. Ecco, certo. Io ho cercato di fare lo stessa cosa creando Harry McCluskey, un investigatore che chiaramente non lo fa, cioè diciamo non è una cosa reale, però usando appunto l'immaginario, l'immaginazione, ho cercato di creare un personaggio che mi desse in qualche modo la possibilità di raccontare appunto ancora di più, di farmi calare ancora di più dentro una situazione noir, che come dicevi tu giustamente prima, c'è anche luce nel disco. Adesso io uso noir per un riferimento, riferimento letterario, sì. Però una storia è fatta di luci e ombre, quindi anche questa storia qui ha delle luci e delle ombre, il personaggio cade, si rialza, cerca, trova, poi c'è un inganno. Anche a livello musicale ho cercato di creare una mia simbologia, ecco, a livello armonico. Sì. È anche molto romantico a mio modo di vedere, tra l'altro, è anche molto romantico. Ascoltiamo allora, a proposito di Henry McCluskey, Il cuore di Henry McCluskey, e poi torniamo in diretta. Puoi restare ancora 5 minuti? Certo, ci mancherebbe. A tra poco, grazie. Grazie Marco. Grazie a te. Queste note lunghe di un sax che indubbiamente, oltre ad essere molto forbito, è molto discretivo. Marco Cesarini, per quanto riguarda composizioni e arrangiamenti, chitarrista, polistrumentista, per il lavoro che stiamo ascoltando, musica.org, che è Antilope Cobbler. Parleremo di collaborazioni e magari svegliamo anche il motivo del titolo. Ci sei, Marco? Sì, ci sono. Parliamo di collaborazioni musicisti all'interno, perché è una composizione anche ben fornita di talenti, eh? Certo, sì. Allora, io ho un'altra formazione che si chiama Ukbar Orchestra, con cui sono uscito l'anno scorso, che si chiamava il disco Transumanza Volume 2, ed è un'orchestra indipendente creata da me, dove all'interno sono passati, ci passano diversi musicisti. Quindi i musicisti con cui ho lavorato per questo nuovo disco, Chianti Lope Cobbler, sostanzialmente sono una costola di quella formazione, sto parlando di Gian Gambini al sax tenore, contrabbasso, che è un sassofonista fantastico, Sì, musicista belle fantastico. notte lunghe, molto urbano, sì, bello. Sì, è molto molto bravo. Poi c'è il magnifico Andrea Angeloni di Gubbio, trombonista, basso tuba e bombardino, anche lui magnifico musicista. E poi c'è Davide Mastoli, batterista fantastico, che ha anche registrato il disco, perché ha uno studio, che è il Clay Sound Studio, a Tavuglia, vicino tra l'altro alle terre di Valentino Rossi. E poi c'è Giacomo Del Monte, che è venuto a fare le percussioni, percussionista della zona. Poi c'è anche la figlia di Gian Gambini, Naima Gambini, al violino, un suo collega, molto giovane, loro stiamo parlando di giovanissimi, 19-20 anni, Marco Rossi al violoncello, e poi io mi sono occupato di basso elettrico, elettronica, chitarra, ovviamente le composizioni e tutta l'architettura, diciamo, anche elettronica, tastiere, pianoforte e via dicendo. E io che sono, scusa se ti ho interrotto, Sì, procedi. scusami tu. No, No, vai, vai, vai. io allora a questo punto svegliamo chi è Antilope Cobbler, perché io sono un Lo possiamo. appassionato della. Ah, O ok, lo vogliamo dire. vuoi mantenere il mistero e lasciamo Lo la sai perché? ricerca? Lo Sì, sai perché? Perché ti vorrei mantenere il mistero? Perché in certo. realtà nel racconto, adesso non so se quanti lo leggeranno e tutto, però siccome in realtà nel racconto la sua funzione sarà che lo scoprirà, infatti finisce con un finale aperto che non si capisce chi è questo Antilope Cobbler, tra l'altro qualcuno me l'ha scritto, ma non ho capito chi è, perché è apposta per lasciare un finale aperto, un po' come fanno con le stagioni Ok. per andare alla seconda stagione. Quindi vabbè, si sa che Antilope Cobbler a livello storico è un nome che se uno ce lo va a cercare tira in ballo tantissime cose della storia italiana, degli anni di piombo, e c'è. Degli scandali. Degli scandali, e c'è in mezzo, comunque lo scrisse nell'Osservatore Politico Mino Pecorelli l'anno prima che lo uccisero, quindi vuole riprendere qualcosa di quell'immaginario, ma siccome di questo Antilope Cobbler non si è mai scoperto niente in realtà a livello Esatto. storico, allora io ho utilizzato questo, perché a me sono uno studioso di quegli anni lì, mi piace tanto fare Capisco. ricerche, leggere. E quindi niente, ho lasciato questo nome perché appunto non si sapeva cos'era, e ovviamente nella mia, di chi è che si celava dietro quel nome, e quindi nella mia storia ha una funzione più che altro immaginifica di questo mistero. Nel secondo capitolo però si capirà, e quindi magari tengo il mistero per questo, non perché voglio tirarmela, Ma ecco. no, certo, mai neanche pensato. Marco Cesarini and Henry McCluskey è una formazione molto particolare, piena ma allo stesso tempo armonica, con queste sonorità e il lavoro chi è Antilope Cobbler per musica.org. Beh, potete scoprirlo, ma soprattutto potete ascoltare questo lavoro. Io ti ringrazio tantissimo, Marco, ti Ti do ringrazio te. appuntamento al seguito allora, ok? Certo, grazie mille. Grazie, grazie Grazie. Marco. Buona Ciao, giornata. buon Ciao. lavoro, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Colonna sonora anche atmosferica per una giornata come questa, molto atipica, in questo caso negativamente, visto il clima, per l'atipico martedì di Radio Città Fujiko. Altri suoni volge al termine, a breve pubblicità si rientra con il Mood Groove, la rubrica appunto del secondo giorno della settimana, ultima settimana tra l'altro del mese di giugno. Pietro Rossi, Rookie of the Year, già in redazione con noi, aspettiamo la palla 2 da parte di Paolo Onofri. E tra pochissimo avremo la diretta. A tra poco, buon ascolto.